Mamma, mamma, c'è gatto, non te l'hanno avvelenato. Mamma, mamma, c'è gatto, non te l'hanno avvelenato. Mamma, c'è gatto, lo bene, bene, con bene, ti racca bene. Corrente se ne va la tirandella. Bene, se ne va la tirandella. Mamma, mamma, c'è gatto, non te l'hanno avvelenato. Mamma, mamma, c'è gatto, non te l'hanno avvelenato. Mamma, c'è gatto, la gamba, gamba con gamba, chiama la mamma per coprire, per capire, va bene, si ti va la tirandella. Bene, si ti va la tirandella. Mamma, c'è gatto, non te l'hanno avvelenato. Mamma, c'è gatto, non te l'hanno avvelenato. Mamma, c'è gatto, la coscia, coscia con coscia, non si conosce, gamba con gamba, chiama la mamma, piede con piede, tira da bene, può bene se ne va la tirandella, può bene se ne va la tirandella. Tira, mamma, c'è gatto, non te l'hanno avvelenato. Tira, mamma, c'è gatto, non te l'hanno avvelenato. Mamma, c'è gatto, la pancia, pancia con pancia, non aveva crianza, coscia con coscia, non si conosce. Lo petto, petto con petto, non aveva rispetto, pancia con pancia, non aveva crianza, coscia con coscia, non si conosce, gamba con gamba, chiama la mamma, piede con piede, tira da bene, povere se ne va la tirandella, povere se ne va la tirandella. Mamma, mamma, c'è gatto, no, te l'hanno avvelenato. Mamma, mamma, c'è gatto, no, te l'hanno avvelenato. Mamma, c'è gatto, lavora, paura, pezzo con pezzo non aveva rispetto, pezzo con pezzo non aveva crianza, cose con cose.